Rigonia. Torniamo in onda, e quella che avete sentito appunto era una voce tratta dal film I 100 passi, e raccontano la storia di Peppino Impastato e più precisamente appunto l'annuncio della sua presunta morte per suicidio. Mentre ascoltavo l'audio pensavo che io ho in comune in questo momento forse solo una cosa con questo video, a parte il fatto che di recente sono stato in Sicilia, ma questo ha poca importanza, ed è il disgusto. Questa infatti non è una puntata un granché allegra, proverò a fare del mio meglio, soprattutto attraverso la musica, per dare un po' di slancio a quello che voglio trasmettere, a quello che voglio raccontare. E mi rendo conto, cioè torno in onda dopo tanto tempo e dopo quello che potrei definire un lunghissimo viaggio. E più o meno un anno fa ho cominciato a... mi sono ritrovato, più correttamente, all'interno di una serie di eventi nei quali ho evidentemente, ma questo lo dico oggi, assunto una posizione sbagliata. Iniziava una nuova vita per me e ero interessato a capire in che modo questa nuova vita potesse svilupparsi, in che modo questa nuova vita avrebbe potuto darmi delle opportunità in tutte le direzioni, lavorativa, di rapporti. Sto accendendo una luce perché ho abbassato la tapparella e adesso sono al buio, e perché credevo molto nelle premesse. A un anno di distanza devo dire che mi sono sbagliato e mi sono ritrovato nella situazione un po' assurda, nel senso, almeno nella mia percezione, di avere veramente tantissimo tempo libero e di non utilizzarlo principalmente, cioè trovarmi con questo tempo molto lungo e in qualche modo per la prima volta dopo tantissimi anni, dopo quasi un decennio, non sapere cosa farne. Non ho più letto, non ho più fatto tanta radio come voi sapete, ma non ho neanche tanto più suonato. Continuo a suonare con un mio carissimo amico fraterno, con cui facciamo delle cose peraltro molto belle, che spero un giorno di potervi far ascoltare. E sono andato ad allenarmi, ma io per conto mio ho passato tantissimo tempo inerte e non so, oggi mi sono detto basta così, mi sono sbagliato, ho cercato qualcosa in un posto dove questa cosa non c'era e come effetto collaterale ho perso di vista i miei interessi, ho perso di vista le cose a cui tenevo di più, tra cui appunto questa piccola iniziativa. Io non so quanti siano in ascolto in questo momento, forse nessuno, non importa, mi ascolterete via il podcast. Questa piccola iniziativa che però mi aveva dato tanto e che in qualche maniera contiene tuttora una fetta di me, nel senso è un piccolo mondo che io ho creato ormai 4 anni fa e di cui peraltro dovrò raccontare qualcosa, perché Fred mi ha chiesto di mettere giù qualche riga per raccontare l'esperienza di Radio Antidoto. Proverò a fare del mio meglio dal mio punto di vista e appunto, come dicevo, adesso basta, è arrivato il momento di aggredire il tempo e di riempirlo di nuovo di quelle piccole cose, non di grandi progetti, ma di quelle piccole cose che mi facevano stare bene o che comunque mi davano l'opportunità di continuare a costruire questo piccolo mondo che poi è un po' il mondo della mia anima, nel senso che in Rigonia è nata come l'idea del pianeta dove una persona poteva atterrare e fare la conoscenza di tutte le idee, di tutte le suggestioni di cui mi nutro quotidianamente. E questa puntata, più nello specifico, è una sorta di sopralluogo, o meglio di un percorso dietro le briciole di pane, nel senso che non avendo più letto, avendo ascoltato pochissima musica, avendo fatto poco nel mio appunto tempo libero, io stesso non sono sicuro di che cosa mi porto dietro. Quindi vi faccio ascoltare, vi ho fatto ascoltare e vi farò ancora ascoltare alcuni brani che sono stati la colonna sonora di questo periodo, e andando a ripescare anche delle cose che non ricordo più bene. E insieme, o almeno io con la mia voce e voi forse con l'ascolto, ricostruiremo un tracciato. Devo dire che già soltanto l'idea di tornare in onda mi ha fatto venire in mente un possibile spunto per una puntata con un ospite, e ho riaperto il mio vecchio pocket dove ci sono tutti gli articoli delle edizioni tascabili che leggevo qualche tempo fa, e ho anche trovato un pezzo molto breve, probabilmente molto sciocco, che mi piacerebbe leggervi. Il prossimo brano che mando in onda si chiama Views ed è un brano di cui mi sono innamorato subito. Sta girando molto per i social, quindi magari qualcuno di voi l'ha già ascoltato. È una versione acustica di un brano rap contenuto in un disco, e a me piace di più questa versione acustica, naturalmente. È un brano che ha un groove pazzesco, il testo è un po' superficiale, un po', come dire, un po' modaiolo, parla di social, non è particolarmente esaltante, però ha un ritmo e un'eleganza molto trascinanti. Quindi adesso ve lo faccio ascoltare. Ehi, cama! Mai è! Ehi, cama! Mai è! Me la ballo. People buy views, I know it's old news, but I got everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my fuse and watch your back. And watch your back, I break your neck, I pop a can of iron, like and paint you black, your name in black. The list I'm keeping overpacked, the others keep the numbers fake and cut the ring. So every day I'm low until I blow. Digging hell, I call me Dash of Snow. Money leather puppets run the show. Underrated, calling me J-Lo. Andale, my P, we have to go. See you later, underrated, see the TLMAO. At the gate of Eden, cotton, I'll be on the speedy boat and tiny trolley with my slate in. Clean and shining, but they don't mind it. You gotta chime in. They don't know what to keep in store. When I become big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, touch wood. No, I don't pop with that. I don't pop with that. I don't pop with that. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my fuse and watch your back. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ain't getting views and I know you jealous. 8, 9, 10, nearly like 11. I'ma elevate the bread till we get to heaven. Got a whole lot of cash flowing it fast. Looking like a stolen stash. Whoa, I'm the best, baby. The jig is up, I can tell your whole damn career is going down. Last year I hit it out the window like the summer. This year I'm messing up the budget, sheesh. They don't know what to keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, such would know. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my fuse and watch your back. Rigo ni a. Torniamo in onda, Rigonia, 9 maggio 2024, la puntata delle briciole di pane, ma anche la puntata del disgusto. Sono disgustato, disgustato principalmente da me stesso, da come io mi sono lasciato andare negli ultimi mesi. Mi sono trattato male, non mi sono trattato bene per niente. E a cosa stavo pensando? Principalmente stavo pensando, oddio, sai che me lo sono dimenticato. A che cosa stavo pensando? Perché in realtà mi sono messo a ballare sulla canzone e poi volevo già fare la copertina per la puntata, che è la puntata 20, tra le altre cose, della presunta seconda stagione di Rigonia, che ormai si è arenata su se stessa un sacco di tempo fa, ma adesso la rinfreschiamo. Ecco cosa stavo pensando proprio a Rigonia. E ho messo da parte il progetto radio quando è iniziato il progetto della newsletter. Era una questione anche di energia, di tempo, di forza, ma appunto non mi sono accorto nel frattempo che, diciamo così, mollavo la radio, che il tempo era tornato. Cioè avrei avuto di nuovo tempo per fare più episodi in radio, invece mi sono fatto distrarre, come dire, dalla realtà più materiale. E una cosa che ho realizzato proprio oggi che avevo voglia di tornare in onda, avevo voglia di farmi sentire, ho realizzato che ho provato in tanti momenti a rimmaginare Rigonia, a decidere che cosa farne di nuovo. E la cosa bella di poter rientrare, di poter ripartire, è che non c'è bisogno effettivamente che io la cambi. Cioè io voglio che Rigonia sia così. E perché io voglio che Rigonia sia così? Io voglio che sia così perché effettivamente c'è qualcosa che Rigonia ha dato a me negli anni. Cioè il fatto che spesso la puntata radio è stata l'occasione per me di esplorare, di approfondire idee, concetti che altrimenti da solo non avrei fatto, per pura pigrizia. Perché curiosamente, effettivamente, io, a parte esagerare con l'uso degli avverbi, ho una pigrizia mentale per cui per fare questo tipo di movimento in avanti, no? Per fare questo, per esplorare, per immaginare una cosa nuova da fare, devo in qualche maniera espormi, mettermi di fronte a qualcuno, anche se in questo momento temo che di qualcuno non ci sia nessuno. E però questo è anche il bello, nel senso, il fatto che vi leggessi gli articoli, il fatto che mi facessi venire un po' la curiosità di parlare con un amico o di parlare con degli sconosciuti, però di un argomento che mi interessava, è stato veramente un ponte. E una delle cose che diciamo così, assieme alle cose positive, un timore che mi è sorto quando appunto, soprattutto oggi, principalmente oggi, ho cominciato a ripensare a Rigonia, è stato: ma non è che questa decisione appunto di rioccuparti di queste cose non sia anche un modo per ritirarti, nel senso che c'è un mondo là fuori che magari, in cui magari poter fare cose, in cui poter agire, invece tu rimani a fare i tuoi podcast solitari, senza nessuno che ti ascolta, a pubblicarli sui social e poi chi lo sa chi li apre. E la risposta che mi sono dato è: chi se ne frega. Ecco, la risposta che mi sono dato è: chi se ne frega, perché perché in fondo l'esplorazione dell'anima è molto più importante, e creare questo mondo per me è molto più importante, e mi spiace molto averlo trascurato. E non lo so, vorrei tornare in onda tra una settimana, vorrei fare delle capatine e mettere della musica. Ci sono delle cose, per esempio, che mi hanno consigliato di ascoltare e che non ho ancora ascoltato, ma per adesso mi mando questo brano che non ricordo più neanche cos'è, e poi vi spiego però cosa mi ricordo di questa canzone, però dopo l'ascolto. My song we come to take over. MC you better look over your shoulder. Yeah, you know we are on and on. and make the crowd jump up. Crowd get hot, I splatter and they rap up. Then the rock on metal punk hip hop. Unity sound killer groove non-stop. In every this place I saw this one will survive. Strength and power I go keep them alive. My song we come to take over. MC you better look over your shoulder. Yeah, you know we are adding on. Oh well no. Skin dread we in all your area. Bring the rock cause you know it's superior. Nobody gets out and they shop it online. Come on, them a try flex, really show them the rock a pump power. Watch them at twist, sting like a scorpion, buzz like an ee. Full of sophisticated, I go drop what toy. This is what we want here. You get to know if you think I'll stop. Come and have a go. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are on and on. Drag we in all your area. When you rock out, you know we're superior. Yeah, you know we earn it all. Nobody gets out and they shop it online. Nobody gets out alive. Nobody gets out and they shop it online. Nobody gets out alive. Nobody gets out and they shop it online. Come follow me one and two, one, six and seven, I'm a bitch. Yeah, nobody gets out and they shop it online. Come and put the lumber, put the lumber. Torniamo in onda così a caso perché ero perso a fare altro. Questi erano gli Skindred con Nobody, è un pezzo su cui, come spesso mi è capitato, sono inciampato per caso ed ero molto affascinato dal fatto che questa band sia una band di lunghissima data. Io onestamente li conoscevo di nome, non avevo mai ascoltato nulla. Ma di recente, qualche anno fa, adesso non ricordo esattamente quando, attorno al 2020 comunque, sono riusciti a raggiungere la top 10 dei dischi UK con una loro uscita. Che è una cosa curiosa, pensando al fatto che comunque si tratta di una band che fa un genere come questo, che è una sorta di crossover e un po' invecchiato. Però che ha un bellissimo groove e un taglio, diciamo così, world music, un taglio caraibico. Io sarei molto molto tentato di mandare subito un altro pezzo. Mi piace l'idea di poter ripartire dalla musica e di poter parlare dei brani. come l'impressione che appunto in qualche maniera io stia un po' sgranchendo le ginocchia, riprendendo un po' confidenza col microfono, e anche ritrovare il gusto del contenuto, che mi sembra una cosa che ho perso di vista, nel senso, anche adesso stavo pensando a una cosa di cui volevo parlare, poi mi è passata di mente come se fossi altrove con i pensieri. Mentre andavo su YouTube e stavo guardando un po' anche la mia cronologia YouTube, per dire, ho guardato pochissimo anche YouTube, quindi ho pochissimi video in archivio da poter proporre, a differenza di Pocket che, vabbè, ho miliardi di articoli che vorrei leggervi, tra cui questo fantastico "Perché il gelato al cioccolato fondente è un clamoroso fake", magari lo leggo proprio oggi. E ho scoperto che Thom Yorke ha fatto uscire una canzone. Io avevo preparato in scaletta un altro brano di Thom Yorke, ma non di Thom Yorke, ma bensì degli Smile, che sono la nuova band che ha fondato col suo chitarrista e col batterista dei Sons of Kemet, che adesso non ci sono più perché il batterista si è messo a suonare con Thom Yorke, ho scoperto, e quindi può darsi che vi mandi due brani suoi, perché in fondo chi se ne frega, però il punto è, mi sono detto, ma sì, la mando su Radio Antidoto, così l'ascolto anch'io, proprio coerentemente con quello che ho detto prima. Rigonia non è solo il posto dove io vi propongo delle cose se voi avete voglia di ascoltarle, ma soprattutto il posto dove io esploro delle cose, perché è come se fosse, perché è il mio pianeta, e quindi qua dentro io posso incuriosirmi e ficcare il naso qui e là su cose che magari altrimenti non guarderei, non ascolterei. Always in time. tore down when level broken. Basta, it never failed. La persecuzione qua. It never failed. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Piece of wallpaper. È una calunnia contro di me. Be an everyday action. Be a robot. Una bravissima persona. Be what your devil is speaking. Non ho fatto niente in questo paese. What your devil may say. Where your devil may take you. Be a chain down to a nice apparel. Be the everyday for days in time. For days in time. Chissà quante volte da bambini abbiamo detto che schifo riguarda qualcosa da mangiare e probabilmente i nostri genitori ci hanno rimproverato. Non si dice così della roba da mangiare, semmai si dice che non ti piace. Volevano farci crescere educati e rispettosi del cibo, immenso dono di Dio. Ma al di là di questo, quando dicevamo così, esprimevamo disgusto. Il disgusto è un'emozione molto importante. Il disgusto è qualcosa che ci aiuta a rimanere lontani da qualcosa che potrebbe farci male, come quando ci allontaniamo da qualcosa di ammuffito, di sporco o di sgradevole. È quella reazione che ci fa storcere il naso, chiudere gli occhi, voltare la testa, allontanarci da ciò che ci disturba. Il disgusto è un'emozione e come ogni emozione ci spinge all'azione e collabora al nostro benessere nel modo che dicevo. A questo punto forse ti starai chiedendo: ok che il disgusto mi tiene lontano da una mela marcia, ma cosa c'entra questo con il rapporto con me stesso e col rapporto con gli altri? Il punto è proprio quello che non soltanto nel cestino della frutta ci sono cose che ci fanno male, ma anche nella vita di tutti i giorni, anche nelle relazioni di tutti i giorni. Ad esempio, proviamo disgusto quando ci accorgiamo che qualcuno ci tratta con disprezzo, ci tratta in un modo che ci fa male, ci disturba e per questo siamo portati ad allontanarci da quella persona o da quella situazione. Esiste quindi anche un disgusto sociale e morale che riguarda persone e situazioni che violano i nostri valori, i nostri principi morali e il nostro benessere. Quando vediamo Yo sé que al verme me muestras disgusto. Yo te quiero. eso no me importa. Que me desprecies es un bien que me hace. Que no me quieras, eso no me puede. Al fin y al cabo, como matan, muere. Rigo ni a. Abbiamo fatto un piccolo mix, è bellissimo, questa cosa è bellissima, nel senso che adesso ho preso il giro, quindi ho trovato un audio che parlava del disgusto e poi ho trovato questa canzoncina messicana molto simpatica che si chiamava El Disgusto e via, abbiamo imbrigliato la puntata. E, voglio leggere questo articolo e penso sia una grandissima cretineria, ma è molto breve. L'ho beccato su GQ Italia, ma penso fosse uno di quei suggerimenti che trovi sul cellulare, li salvi incuriosito e poi non li leggi, ovviamente. Il titolo è "Perché gli uomini piangono così poco", l'ha scritto tal Michele Razzetti. Il 24 dicembre 2023, la vigilia di Natale, Michele Razzetti riflette sul perché gli uomini piangono così poco. Aperte virgolette, ancora oggi la maggior parte degli uomini di fronte a un disagio emotivo fa fatica a riconoscere le proprie emozioni, a dargli un nome, a condividerle con la propria compagna, compagno, e questo diventa ancor più vero per le emozioni negative, come la tristezza, chiuse virgolette, ci spiega Luca Pierleone, presidente della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia. Aperte virgolette, fin da piccolo agli uomini viene insegnato che piangere è sbagliato o che bisogna piangere solo per le cose importanti. In un certo senso è come se questa naturale predisposizione fisiologica venisse bloccata in fase di sviluppo. In sintesi, di fronte a una sofferenza individuale o relazionale, sarà molto più facile vedere un uomo che diventa silenzioso, passa più tempo fuori di casa, che tende a distrarsi o a concentrarsi di più sul lavoro, su dei progetti pratici, o che passi molto tempo a fare sport, chiuse virgolette, conclude Pierleoni. L'uomo che piange non è sempre stato condannato, anzi, e qui arriva il bello. Purtroppo molti di noi non hanno ancora capito che stereotipi come quelli di cui parliamo sono figli di costruzioni culturali. Non tutti i secoli né tutte le culture hanno condannato l'uomo che piange, come abbiamo fatto negli ultimi circa 150 anni. Ce l'ha spiegato bene Menin, che da studioso delle, penso, Menin, non so bene se sia francese o italiano, che da studioso delle emozioni come fenomeno culturale ci ricorda che sono diversi gli eroi omerici, come Patroclo e Achille, che piangono, tanto che le lacrime possono essere quasi considerate una caratteristica eroica. Nel 700 poi, in Francia nasce il modello dell'uomo sensibile, che appartiene a un'umanità superiore proprio perché è in grado di manifestare le proprie emozioni e mettere nei panni altrui. In questo periodo il fatto che due uomini piangessero in pubblico, magari abbracciati, non era visto come segno di debolezza. E così Rousseau, Diderot e Voltaire, alcuni dei massimi pensatori di questi anni, non so perché c'è questa tra parentesi, alcuni dei massimi pensatori di questi anni, pagina del 700, e così Rousseau, Diderot e Voltaire, ok, alcuni dei massimi pensatori di questi anni, penso riferito a 700, aperte virgolette, non solo non hanno pudore a raccontare che piangono, ma anzi ne fanno un motivo di onore. L'assenza di filtri nella manifestazione dell'emotività è esaltata, chiuse virgolette. Non sorprende così che siano nati in questo periodo il teatro e il romanzo sentimentale, costellati di eroi che piangono. Uno di questi, Giulia o la nuova Eloisa di Rousseau, diventa un vero bestseller. E quindi, l'uomo che piange, cos'è? E qui siamo in chiusura di articolo. La risposta più bella sarebbe un uomo che piange, punto. Per ora purtroppo ancora così non è. E quindi, come in ogni stereotipo tossico, e vai, abbiamo messo anche l'aggettivo tossico nell'articolo, siamo tutti chiamati a scalfirlo nella quotidianità. Un po' di lavoro è già in atto nelle nuove generazioni, ma serve uno sforzo corale per riabilitare le lacrime emotive, che fra le altre cose sono tipiche dell'essere umano, sono cioè un tratto distintivo della nostra umanità. Come ricorda Milanese, che però adesso non, neanche lui so chi è, non so perché cita questi autori così un po' all'improvviso, vabbè, Milanese ricorda, la vera forza sta nel potersi concedere un modo sano e fisiologico di esprimere il dolore. Quando riusciamo a farlo diventiamo subito più solidi. Sforziamoci quindi di esaltare questa forza, perché in una società come la nostra, dove una lacrima ti può costare un'etichetta in cui non ti riconosci, chi piange in pubblico non è forse da vedere nel suo piccolo come un eroe? Rigo ni a. fatto questo pastrocchio col jingle perché volevo, come dire, creare una cesura tra la lettura e l'articolo senza mettere un'altra canzone, anche perché sono in onda da 47 minuti e manca poco. Chi ha letto Jack e Rihanna negli ultimi mesi sa che io sono andato a sbattere contro questa cosa delle emozioni, e anche il piangere è una cosa che ormai appartiene, voglio dirlo, alla mia quotidianità, e sto sfidando me stesso in maniera anche abbastanza violenta, cioè di petto, a provare le emozioni negative che sto provando da questi tempi, in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno in cui mi sono andato a incaponire su cose senza senso. E perché l'ho fatto? Perché ho capito una cosa, che questo articolo, che comunque è scritto un po' così ma dice cose giuste, è importantissimo rispetto alle emozioni come appunto il disgusto, il pianto, e ci metto anche la tristezza, la rabbia, la malinconia, sono tutte indicazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu, quando entri in quella dimensione lì, in realtà non stai veramente semplicemente soffrendo, cioè la sofferenza è il modo che il tuo corpo ha per indicarti una strada, ti sta dicendo: guarda che tu devi andare di là, perché di qua ti senti così, ma di là no. Ed è il motivo per cui sono in onda, perché qua non mi sento male, anzi mi sento molto bene e sono molto contento di come è venuta la puntata, e non me l'aspettavo, e ho recuperato un po' di briciole di quell'immaginazione che insomma vi avevo portato e che spero vi faccia piacere ancora ascoltare di tanto in tanto. Cerco di essere originale a modo mio, facendo magari una cosa un pochettino più classica, più canonica di quello che vi propongono gli altri amici che ancora trasmettono, perché Radio Antidoto è ancora vivace. Magari noi non ne abbiamo la percezione, ma io che sono mancato da tanto tempo mi sono reso conto che ci si scrive tutti i giorni, qualcuno bene o male condivide un podcast che ha registrato andando in onda, e in qualche modo ci siamo ancora, e voglio tornare a farne parte. Soprattutto mi farebbe piacere sentire la vostra, anche con Jack e Rihanna, ma in generale, nel senso, se vi capita di ascoltare, ditemi che l'avete fatto, ditemi cosa ne pensate, criticatemi, insomma, dibattiamo. Questa è anche un po' una scusa per creare degli argomenti di cui parlare un pochettino più interessanti di quelli che magari ci tocca sopportare durante tutti i giorni. Una parte di disgusto purtroppo la dedico a chi è ossessionato dalla politica di attaccato, dal rancore sociale, e anche un po' da questa presa di posizione sempre molto aggressiva, sempre molto poco emotiva, se vogliamo, nel senso positivo del termine, di condivisione. Più che delle proprie opinioni, di rabbia e di fastidio della propria fragilità di fronte a forse un mondo che ci si sta un po' accapottando, si sta girando su se stesso e ci sta mandando in confusione. Insomma, hanno una canzone che è una canzone fortemente rigoniana, quindi non è niente di che, non è un pezzo memorabile, ma ha esattamente il tipo di mood che vi aspettereste da me quando mi conoscete. Infatti, nonostante sia un pezzo del cazzo, è una di quelle cose che quando l'ascolto penso: sai, mi piacerebbe proprio suonarla in gruppo questa cosa qui. È anche un po' lunghetta e tende un po' a ripetersi, però a me sta roba qua piace, e se avessi continuato ad avere una band probabilmente l'avrei suonata. I bet you're sick of pulling teeth, but hold me down till I believe that I'm okay, that I'm okay. I go to touch to keep the word you need to stay with me till I'm okay, till I'm okay. Ops, siamo tornati in onda. Ciao a tutti. 17:55, siamo in chiusura di questo episodio. Metterò una canzone ancora triste per chiudere, mi perdonerete. È una canzone di Sean Lennon, del suo secondo disco, che non ho avuto la fortuna del primo. Questa canzone è veramente un pugno nello stomaco. L'ho ascoltata un tot di volte qualche settimana fa, mi ricorda di un periodo della vita in cui veramente mi trattavo male, e mi ha aiutato a ricordarmi anche che non era il caso di trattarmi troppo male in questo periodo della mia vita, ma allo stesso tempo di non fingere che le cose andassero per forza bene. Il testo, il ritornello di Pulling Teeth degli Slow Joy dice: immagino che tu sia stanca di fare l'impossibile. Pulling Teeth vuol dire fare uno sforzo pazzesco, come tirar via dei denti a mani nude. Ma adesso vado a spanne perché lo so più o meno a memoria il ritornello, ma ho bisogno che tu mi dica che va tutto bene. E la canzone è un po' il racconto dell'artista, nel senso che è questo il cantante che, insomma, dice: io purtroppo di tanto in tanto finisco in questi posti molto scuri da cui tu mi devi trascinare fuori, e lo so appunto che ti metterà molta stanchezza, però ho bisogno che tu mi dica che va tutto bene. E è molto emotiva come cosa, infatti il brano è fortemente emotivo. Io vi saluterei ringraziando chi ha fatto capolino, chi mi ha salutato, se c'è stato qualcuno che ha ascoltato silenziosamente senza farmi sapere nulla, ciao, grazie per esserci stato. Io, se tutto va bene giovedì prossimo tornerei. No, giovedì gioco, però gioco alle 9:30. Va bene, vediamo. Comunque la prossima settimana sicuramente torno in onda. E se mi va, in realtà torno in onda anche prima, perché mi è mancato molto fare questo, e devo dire, anche se immagino che il tema non sia dei più, il tema di oggi non sia stato uno dei più leggeri, mi sono divertito, mi ha fatto proprio piacere. Quindi vi lascio con Sean Lennon e con la nostra solita sigla. Ciao, buona serata. Il brano è preso come sempre da YouTube, quindi ha tutti gli effetti del videoclip, naturalmente. Bella la canzone di Thom Yorke, credo che sia la colonna sonora dell'ultimo film di Guadagnino, che si chiama Confidenza. With the wrong team, better not try it. Tra l'altro il video era carino perché era il racconto di lui, che era tipo un soldato napoleonico che subiva una disfatta sul campo di battaglia, qualcosa del genere. Mi è sempre piaciuto molto questo finale, con questo ritorno dell'orchestra. Tra l'altro, appunto, tutto il disco da cui è tratta questa Dead Meat è il racconto sostanzialmente di lui che si molla con una tizia dopo veramente tanti anni di relazione. Il suo cuore è frantumato. Adesso John Lennon è un matto che fa delle cose stranissime. Tra l'altro è uscito un disco nuovo di recente che pare sia carino. Magari ce lo riascoltiamo insieme. Ce lo ascoltiamo insieme perché io non l'ho ancora mai sentito. Un abbraccio, buona serata. Arrivederci su Rigonia.